Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Filippo Aureggi in regia. Partiamo da Bruxelles, come facciamo in maniera del tutto naturale, dove domani viene presentata la lista di riforme che è attesa ormai da molte settimane dalla Grecia. Lo fanno sapere le fonti dell'Unione Europea, spiegando che la bozza di decreto circolata contiene degli elementi già al centro dei negoziati. L'Euro Working Group di oggi è invece una riunione regolare già fissata da tempo in calendario, così leggiamo in una nota, appunto, in un arrivo da Bruxelles. E invece la Corte di Giustizia UE si occupa di un tema molto delicato e comunica l'esclusione permanente dalla donazione di sangue per uomini che abbiano avuto rapporti omosessuali può, alla luce della situazione in Francia, essere giustificata. Così appunto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sua sentenza, ma la Corte aggiunge e precisa: occorre dimostrare che per queste persone esiste un alto rischio di contrarre gravi malattie infettive come l'HIV e che non siano disponibili tecniche efficaci di ricerca o metodi per assicurare un livello elevato di protezione della salute dei riceventi, meno restrittivi, dunque metodi meno restrittivi della stessa esclusione. E ancora dal Consiglio UE risposte immediate ma non sufficienti, così il presidente della Commissione dell'Unione Europea, Jean-Claude Juncker, questa mattina alla plenaria di Strasburgo. La réponse du Conseil européen à la tragédie humaine à laquelle nous venons d'assister dans la Méditerranée a été immédiate. Parla alla plenaria di Strasburgo il presidente della Commissione Juncker, parla di migranti, di naufragi e di responsabilità, mentre attorno svolazzano cartelli di europarlamentari con la scritta «Je suis migrant». Alcuni hanno portato le scarpe di chi è fuggito dalla guerra attraversando il mare senza saper nuotare. Lo ha fatto Soru del PD, che è intervenuto al dibattito sulle tragedie nel Mediterraneo parlando con in mano le scarpe di un padre e un figlio giunti sulle coste italiane. Il ne fu pas normal che d'avoir laissé au seul soin de l'Italie. Lasciare sola l'Italia nella gestione di questa emergenza è stato anormale, ha detto Juncker prendendo la parola, un discorso che ha centrato tante mancanze da parte della politica europea e ha rilanciato. È necessario che la nuova strategia dell'Europa sull'immigrazione preveda un meccanismo di quote che vada al di là della volontarietà. L'Europa deve fare la sua parte con azioni di solidarietà condivisa, bisogna aprire flussi per agire sull'immigrazione in regola, così ha detto Juncker. Ma non solo, il presidente della Commissione ha parlato di un grave errore, quello di interrompere Mare Nostrum, un errore che ha provocato gravi perdite di vite umane. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molto critica la posizione della leader del Fronte Nazionale, Marine Le Pen, che ha detto: Juncker non può dire di aprire la porta agli africani, credo che la soluzione stia nel sistema australiano e negli aiuti ai paesi d'origine, non appunto nello spalancare le nostre porte a milioni di clandestini. Una linea sottoscritta dal leader della Lega Nord, Salvini, che ha accusato il presidente della Commissione UE di finanziare gli scafisti. E ora cambiamo argomento. Dopo una lunga maratona negoziale, il Comitato UE per la salute delle piante ha adottato le misure anti-xylella, tra queste l'eradicazione degli alberi malati nelle aree infette e di tutte le piante ospiti situate in un raggio di 100 metri. Il Comitato Europeo per la protezione delle piante ha varato il nuovo piano di misure anti-xylella, il batterio che sta seccando gli ulivi nel Salento. Per la provincia di Lecce, dove non c'è più nulla da fare, si applicheranno solo le misure di contenimento per combattere l'insetto vettore, le cosiddette buone pratiche agricole già presenti nel piano del commissario delegato Giuseppe Silletti. Il mio piano non prevede affatto l'uso di sostanze chimiche, prevede invece la erpicatura o la leggera aratura dei terreni. Obbligo di espianto invece per gli ulivi infetti presenti nelle zone al confine tra Brindisi e Taranto, dove l'area non è ancora compromessa e bisogna evitare che il batterio si diffonda. Con le buone tecniche colturali, l'attività vegetativa della pianta si riprende e il problema è che il batterio è sempre all'interno. Se in una di queste piante, diciamo per così dire, rigenerate, arriva l'insetto, l'insetto si infetta e quindi è possibile infettare nuove piante. Solo nel caso in cui si accendessero nuovi focolai di infezione, le misure saranno più rigorose e si ricorrerà all'eradicazione di ogni pianta infetta e di quelle circostanti. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo è tutto per il nostro appuntamento di metà giornata con l'Europa. Naturalmente a domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.